Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Dopo qualche settimana non mi faccio più neanche troppe domande e mi lascio cullare dai rumori e dalla poesia dello spettacolo sotto il tendone. Mi lascio avvolgere dal fascino della contorsionista e dalla grazia dei cavalli. Mi diverto a fare la regia delle musiche e a dirigere il faro nel cavo che il trapezzista percorre con coraggio. Io sono Fabrizio, abito a Latina, sono sposato da più di 25 anni con Antonella e ho 4 ragazzi che ormai sono quasi uomini. È il 30 di maggio del 2012, buongiorno a tutti, sono le 16:08, questa è Voi Siete Qui, state ascoltando Radio 24. È il 30 di maggio, quindi manca praticamente un mese alla fine della stagione ufficiale di questo programma, visto che chiudiamo il 29 di giugno, e mancano 3 settimane a quello che è, diciamo, l'evento che conclude questa stagione e che raccoglie alcuni tra tutti i racconti che ci sono arrivati. E dal momento che abbiamo chiesto a voi, attraverso un sondaggio, un po' come 24 mattino, quando è il sondaggio? Il bianco e il nero, bianco e nero. Invece che decidere che cosa è bianco e cosa nero, vi chiediamo di tornare con la memoria a tutti i racconti che abbiamo letto e mandato in onda dal 5 di settembre ad oggi e di capire quale vorreste riascoltare in quella serata. Io ho sotto gli occhi la lista, cioè l'elenco dei racconti che abbiamo utilizzato, dei 100 racconti che abbiamo utilizzato per l'ebook, che vi ricordo potete continuare a scaricare attraverso il sito. Se aprite l'home page di Radio 24 vi appare una finestra bloop che vi dice scarica l'ebook, è gratuito, scaricatelo. In quella stessa finestra, oltre a scaricare l'ebook, potete votare qual è il racconto che vorreste risentire, quello che vi ha più divertito, vi ha più commosso o che vi è piaciuto banalmente di più. E davvero, andando indietro, ce n'è. Beh, il primo di Marta, me lo ricordo ancora, Marta Scarabelli, Il sogno continua, era lei che andava a fare l'audizione al conservatorio ed era l'ultimo anno che poteva farla. E poi ancora Wichita, Kansas, di Marco che fa questo viaggio in Kansas e c'è il capo indiano, ti ricordi? La guida, no, nel ghiaccio, la guida nella neve, bravo. E poi ancora il menestrello, l'amico menestrello che suona in mezzo alla strada, te la ricordi quella? Esatto. Poi Milano Famagosta, rose rosse, certo, era la signora anziana che abitava da sola. E poi ancora il parto, e quella è la storia di un parto di Gustavo. Poi ancora Io Beppe il sapore dell'acqua, non me lo ricordo. Sì, il racconto di un fiume, mi pare. Uno che si butta nel fiume, nuota nel gorgo del fiume. Sì, me lo ricordo. Perché dimoraste tanto? È il bimbo che viene adottato. Le 4 valli che erano 5, certo, quello per cui si perdono invece che 4 valli ne fanno 5. Sono veramente una marea. Montreal 1970 di Enrico, che racconta del padre. Enrico è venuto a suono del libro anche. Del padre che era un meccanico della Ferrari, giusto? Allora in totale sono 215 racconti. Quelli che abbiamo scelto per l'ebook sono 100. Potete votare quello che vorreste riascoltare. E il live di Voi Siete Qui sarà questo: sarà ripercorrere attraverso i racconti che avete scelto e quindi attraverso la mia voce che li legge, ma anche voi che sarete presenti. Ci sarà molta più interazione dell'anno scorso. L'anno scorso è stata una sorta di spettacolo formale, un reading abbastanza asciutto. Quest'anno vorrei che ci fossero le persone che hanno scritto i racconti. Mi piacerebbe che ci fossero quelli di cui leggerò il racconto in quella serata. Vi ricordo che la serata è gratuita, inizia alle 21 ed è martedì 19 giugno, tra 3 settimane. Per iscrivervi e per prenotarvi andate sul sito di Radio 24. In fondo c'è la mia faccia, la mia bella polo rossa, ci cliccate sopra e compilate, ci sono 4-5 righe da compilare, nome, cognome, eccetera, eccetera. L'orologio spezzato, certo, Delia, me la ricordo Delia, che aveva avuto problemi di alimentazione, di anoressia. Un irlandese a Roma, bello questo, era quello che ha la faccia da irlandese, che viene beccato sull'autobus e fa finta di essere irlandese, dice: oh amico, non sono irlandese, però se te beccano, vabbè. Vino, il giorno più bello, le riguarderei tutti, la pesca del miracolato? Come no? La pesca del miracolato era quello che tirava le bombe e venivano sui pesci. Siamo tardi, siamo in ritardo? Level Survivor? Laura, quella che andava a fare il colloquio di lavoro e diceva com'è il tuo livello di inglese, buono, invece lei diceva il survival. Alla fine lei ha trovato lavoro, ci ha scritto. 349-238-6666, dai, anche via sms, qual è il racconto che vorreste risentirvi? E poi lo votate sul sito di Radio 24 nel pop-up che vi si apre appena digitate radio24.it. Caccia al tesoro, riconoscenza, i nomi delle donne, certo, la corda pazza, le cose che segnano un confine. Sì, è vero, sembrano di 10 anni fa, invece sono di pochi mesi fa. Il live è il 19 giugno, ripercorriamo i racconti che vi sono piaciuti di più e li rileggiamo. Votateli sul sito e iscrivetevi soprattutto. È una serata gratuita, dovete semplicemente prenotarvi. Ci sono all'incirca 500 posti e come vi dicevo ci siamo già quasi a metà, quindi se fossi in voi mi prenoterei subito. Vi ripeto, radio24.it, in fondo alla pagina, trovate tutto. Oggi invece si parla di un'altra cosa, si parla di una storia, questa sarebbe una storia anche da rileggere, perché è una storia che appartiene a 30 anni fa e soprattutto appartiene a un mondo che tutti noi conosciamo e ad alcuni piace molto, ad altri fa invece molta malinconia, me tra i primi, ed è il circo. Apro gli occhi e mi guardo intorno. Ci metto un po' a realizzare che sono nella cabina di una nave. Forse sono ancora un po' rintronato dalla pasticca che mi hanno dato per dormire meglio e non sentire la traversata. Si prevede mare mosso e io non sono una portaerei. Il rumore e le vibrazioni dei motori un po' mi turbano. Non ho mai viaggiato in nave. Ora che sto andando in Sardegna per la prima volta, ho solo voglia di vedere la terraferma. Sono le 2:30 di notte e un marinaio mi avverte che per il mare agitato siamo ancora a Civitavecchia. Dormo poco e male. Viaggio lungo, sogni agitati. Quando entriamo nel porto e vedo Olbia, sono le 11 del mattino. Non fa freddo, anche se è novembre. Novembre 1982. Io mi sento come Cristoforo Colombo. L'aria pulita e i profumi della terra sarda iniziano ad entrarmi dentro mentre con Franco e Olga andiamo in macchina verso Porto Torres. Guardo stupito una terra sconosciuta e piena di tutto quello che ancora non sapevo di cercare. Franco ha già una certa età e Olga è la sua giovane compagna. Io ho messo nella valigia vestiti e tanti libri, oltre ai miei 22 anni. Quando arriviamo faccio un giro nel mio nuovo posto di lavoro. È tutto misterioso, sembra prendermi in giro. Vado a conoscere il domatore di leoni, uno spagnolo sorridente e chiacchierone, e poi Andra, l'elefantessa. E solo alla fine i tre fratelli che dirigono questo circo. Gente coraggiosa. Il segretario di questo circo mi ha invitato ad andare con lui in Sardegna e quindi sono andato volentieri nei miei 22 anni perché a Latina, nella città in cui vivo, erano successe delle cose che non mi andavano più bene e avevo voglia di partire. Il giorno dopo inizio a girare con una vecchia macchina in tutti i paesi che saranno le prossime tappe del tour sardo, fissando nel mio sguardo paesaggi che non scorderò più. Chilometri e chilometri incontaminati, dove la natura è padrona e i pastori regnano con le loro greggi. Albe e tramonti dai colori mai visti. Sguardi curiosi di bambini vivaci e sguardi severi di uomini audaci. Donne dal fascino straniante e abitudini di vita che portano sospese mille domande. Per me sono due nuovi mondi in una volta sola. Gli abitanti scanzonati e rumorosi di una realtà che viaggia sempre e si ferma poco, il circo. E quelli fieri e silenziosi di un'isola che sembra sia ferma lì, uguale a se stessa da sempre. Dopo qualche settimana non mi faccio neanche più tante domande e mi lascio cullare dai rumori e dalla poesia dello spettacolo sotto il tendone. Mi lascio avvolgere dal fascino della contorsionista, dalla grazia dei cavalli. Mi diverto a fare la regia delle musiche o a dirigere il faro nel cavo che il trapezista percorre con coraggio. In generale hanno difficoltà a fermarsi, nel senso che loro chiamano le persone che non sono così in giro per il mondo, li chiamano i fermi, cioè quelli che vivono in una casa con quattro mura. E ho capito che la loro libertà, anche se all'inizio mi faceva paura, è qualcosa di, sotto certi punti di vista, meraviglioso. Nei continui viaggi fisso nel cuore gli sguardi di ragazzi e ragazze che mi domandano come si vive in strada senza casa. Mi faccio conquistare dalla bellezza del girovagare di Sulla strada o I vagabondi del Dharma di Kerouac, poggiati sul comodino della mia roulotte, spedendo cartoline ai miei amici di Latina, lasciati nel loro tossico destino. Fino a che incontro Antonella, DJ di Lady Radio, che mi intervista e mi incatena al suo cuore con la dolcezza e la rabbia di Domus Novas, il suo paese, e ancora qui sto. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. E attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Devo dare di gas, voglio energia, metto carbone e follia. Se mi rilasso, collasso, mi manca l'aria e l'allegria. E perciò attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Il circo è uno spettacolo con tanti attori, nessuna trama e grandi stranezze. Non sono un esperto di circo, però credo che sia sempre esistito. Perché alla gente di ogni epoca è sempre piaciuto provare delle emozioni forti. Avere paura per un acrobata che rischia la vita, ridere e commuoversi per i pagliacci, stupirsi per la capacità dei giocolieri o per l'imponenza degli elefanti. C'era nell'antico Egitto e nell'antica Roma. C'erano ricostruzioni di battaglie, esibizioni di animali ammaestrati, spettacoli di ogni tipo. Era uno spazio diverso da quello che conosciamo adesso. C'erano due rettilinei paralleli dove si svolgevano gli eventi. Ora invece si usa un tendone circolare perché i cavalli ci possono correre e le signorine mezze nude starci in piedi. Il circo piace ai bambini e piace anche ai grandi. Il circo ha il fascino dell'ignoto e del misterioso. Però, per me, il circo è la cosa più triste che c'è. Non lo so perché. Sarà che ho avuto una specie di imprinting negativo e che la prima volta che mi ci hanno portato è stato un disastro. Non lo so se è per quello, però a me il circo mette addosso un magone tremendo. Forse per gli animali in gabbia, forse perché quando ci sono andato io, quel giorno mi ricordo che ho visto la signorina che faceva i biglietti, che era anche quella che vendeva i popcorn, e poi era quella che saliva in piedi sul cavallo, tutto lei. Non so perché tutta questa tristezza, forse era perché gli acrobati a un certo punto hanno sbagliato e io mi sono imbarazzato per loro. O forse no, forse è tutta colpa della scimmia. Ne ho un vago ricordo, credo fosse un macaco o un babbuino. So che era piccola e andava in giro con un guinzaglio al collo e con l'ammaestratore che le dava degli zuccherini se lei prendeva i cappelli alle signore o si sedeva in braccio ai bambini. E io non mi ricordo niente, ma sento ancora sulle cosce, come se fosse oggi. Sento ancora quello osceno senso di umido e caldo di quella bestia sconosciuta che mi era capitata addosso senza che io la volessi. E tutto intorno a ridere della situazione. Proprio mentre io trattenevo il pianto che era un misto di umiliazione e di paura. Perché lei aveva i denti, aveva le mani, gli occhi e faceva delle cose, ma non era un uomo. Era una cosa misteriosa non abbastanza lontana da farmi sorridere e non abbastanza vicina da rassicurarmi. E mi ha pure rubato lecca lecca. Mia madre non si era accorta di niente, non si era accorta di quanto fossi a disagio e quindi non è colpa sua. Però io le scimmie non le sopporto più da quel giorno. È anche un po' il circo, con i pagliacci con la lacrima disegnata in faccia, quelli che vanno in giro tra il pubblico cercando qualcuno da prendere in giro perché è pelato o grasso, o qualche bambino da accarezzare e poi spaventare con uno schizzo d'acqua, o qualche signora da sedurre con un mazzo di fiori che spunta dalla manica. Io ho un grande rispetto per chi lavora al circo, perché è chiaramente faticoso, è difficile e comporta anche la scomodità di non avere un reddito fisso e di vivere sempre lontano da casa. Se una casa ce l'hanno. E poi devi essere bravissimo nel tuo mestiere, devi avere un talento mostruoso in qualche cosa e io ho grande invidia per chi ha talenti mostruosi. Però se dovessi avere mai un figlio lo porterei dappertutto, ma forse al circo no. Oppure sì, anzi potrebbe essere catartico, potrei rivivere il trauma e liberarmene. Perché in fondo sono solo persone con grandi capacità e animali che non avrei visto mai. Basta che non mi portino una scimmia vicino, basta che non cadano mentre fanno le acrobazie, basta che la signora che vende i biglietti non si metta in mutande in piedi su un cavallo e che non sia un novembre a Novara. Ma voleremo in cielo in carne e ossa, non torneremo più. E senza fame, senza sete, e senza ali e senza rete, voleremo via. Erano anni. anni che chiedevo a Tiziano Bonini di mettere una roba che tutti potessero cantare in macchina immaginando di avere una chitarra in mano, e finalmente ci siamo, addirittura con De Gregori. Credo sia la prima volta che mettiamo De Gregori. La primissima volta che mettiamo De Gregori. Donna cannone. Hai capito? Ma tipo invece De André l'abbiamo messo, sì. Fossati l'abbiamo messo. Fossati, come se l'avessimo messo. La mia banda sonora che abbiamo messo. Gino Paoli, faccio tutti in scuola genovese. Gino Paoli, no, Gino Paoli mai. Aveva messo ovviamente una cover, certo. Qualcuno ci chiede, e Vasco Rossi? Vasco Rossi, mi spiace, ma ci sono altri programmi che mandano Vasco Rossi, però, giusto? Beh, poi abbiamo Zocca, certo. Potremmo fare un Destini Incrociati. Destini Incrociati. Voi siete qui, incontra Vasco Rossi. 349-238-6666. Ho ancora una foto di me e un amico di infanzia, 6 anni al circo, accanto alla classica scimmietta. Un'immagine malinconica di fantasia, dalla donna barbuta all'uomo che piega le sbarre. Alex, c'è qualcuno che al circo ci ha lavorato ed è la prima volta che io incontro una persona che ha lavorato al circo. Pronto? Sì, ciao Matteo. Ciao, come stai Fabrizio? Bene? Bene, benissimo. Senti, quanti anni fa? Parliamo dell'82, quindi sì. 30 anni secchi. Sì, sono 30 anni. È molto tempo fa, è un altro mondo in qualche modo. Quanto tempo ci hai lavorato, Fabrizio? Quasi un anno e mezzo. E facevi il tecnico, o sbaglio? No, diciamo che proprio il fatto che nel circo tutti fanno un po' tutto, io praticamente il mio ruolo principale era quello di segretario, cioè davo una mano a Franco a fare il segretario, quindi andavo in giro a organizzare gli spettacoli per le scuole, i contratti, questo, trovare le piazze, tutte queste cose qui. Poi però nello spettacolo si lavora tutti, cioè si lavorava tutti, quindi io facevo a volte magari, che ne so, quello che stava a sparo, oppure la regia, musica, queste cose qui, mettevo la pubblicità. Cioè, quindi è vero che tipo quella volta che io vidi la signora che faceva i biglietti poi vendeva il popcorn, è reale, no? Che tutti fanno, sì, un po' tutto. Quello è reale, sicuramente, diciamo che nei circhi magari un po' piccolini, cioè, che ne so, in 10 fanno tutto. Noi eravamo comunque una compagnia di 60-70 persone. Ah beh, era grosso il circo. Sì, avevamo quasi 1500 posti. È una compagnia mezza italiana e mezza spagnola. Come si chiama? Oddio, come si chiamava, perché poi l'ho rivisto, il circo non si chiamava più così. Comunque si chiamava Circo Amar, che praticamente era Anna e Martina, due vecchie donne che erano, diciamo, quelle che avevano fondato il circo. Senti, e tu a 22 anni, da Latina, come ci sei finito a lavorare al circo? Guarda, cerco di essere breve. Comunque, le mie sorelle in un campeggio avevano conosciuto questo segretario, perché dato che la compagnia era mezza italiana e mezza spagnola, il circo era in Spagna. Quando in estate questo Franco, poi noi siamo andati a trovarlo a settembre, e lui mi ha invitato, guarda che a novembre più o meno torna al circo, visto che era un periodo un po' così, che avevo un po' di voglia di andare via da Latina per vari motivi, mi ha detto guarda, se vuoi venire con me a lavorare nel circo. Olga era una mia amica e quindi lei è partita prima e l'ho raggiunta un po' dopo. Senti, tu volevi andartene perché, senza entrare nel merito, perché non era un bel periodo quello? In sì, generale, no? Era un bel periodo in generale, dopo i figli dei fiori c'era stata un po' di confusione. Di inversione di tendenza. Quindi avevo troppi amici che praticamente mi avevano, la compagnia era diventata un po', come, non mi piaceva più, quindi perché voglia di viaggiare l'avevo conosciuta andando a fare il militare, quindi mi piaceva molto andare via, insomma. Che cosa fai adesso, Fabrizio? Diciamo che lavoro in un grande centro commerciale. Ma dove? A Latina? A Latina, sì. Quindi sei tornato, in mezzo da allora a oggi cos'è successo? In mezzo da ora oggi, vabbè, a parte i figlioli, è la cosa più bella. Che sono 4, tra l'altro, mi sembra di capire. 4, sì, 3 ragazzi che hanno 24, 22, 21 e una bimba, ormai se gli dici bimba si arrabbia, che ha 13 anni. Okay. Niente, ho fatto prima tecnico, poi perché il mio mestiere principalmente era tecnico, sì. Riparatore di cose elettroniche. Adesso lavoro in un centro commerciale perché non arrivare non conviene più e faccio praticamente l'addetto in un grande centro. Va bene, Fabrizio, ti devo salutare, ma ti ringrazio moltissimo, il tuo racconto era molto bello. Ti inviterei il 19 di giugno, ma temo che sia un po' lontano da Latina. Va vabbè, dai, ce ne sarà una. Va bene, ci sarà. Grazie mille, Fabrizio. Buon in bocca al lupo. Ciao, grazie. Ciao. Mi scrivono che il racconto che vorrebbero risentire è quello delle paperelle. Continuate a votarlo sul sito radio24.it. Voi siete qui. Fabrizio è insieme ad Antonella nella foto che ci ha mandato e che trovate sul sito di Radio 24 alla nostra pagina. Voi siete qui. Ed è, credo, proprio quell'epoca, l'epoca di cui ci parlava. Perdona, possiamo rifarla? Mi rifai per piacere. Grazie. Voi siete qui. Fabrizio è insieme ad Antonella nella foto che ci ha mandato. È proprio una foto di quell'epoca, l'epoca di cui ci parla nel racconto, l'82, e hanno proprio le facce dell'82, hanno le espressioni, hanno gli occhiali, le magliette e i capelli degli 82. È una bellissima foto, sono insieme e sono molto innamorati. E sembra proprio una di quelle foto che ogni tanto si tirano fuori, foto dei propri genitori quando si hanno magari 25 anni, l'età dei figli di Fabrizio e Antonella, e vedere quelle foto e ricordare che i tuoi genitori hanno avuto la tua età e sono stati insieme in quel modo lì, e non mandando semplicemente a quel paese dopo cena perché uno non ha fatto la spesa e l'altro si è dimenticato di pagare la bolletta del gas. 349-238-6666. Matteo, non hai detto dov'è la serata? Ciao Giorgio, la serata è a Milano, nella sede di Radio 24, nella sala Collina, via Monte Rosa 91, vicino a Piazzale Lotto. È comodo coi mezzi ed è comodo in automobile perché è vicino all'autostrada. E a questo proposito leggo il messaggio di Stefano e verrà subito indetta la gara a chi è venuto da più lontano. Ciao Matteo, non so neanche io come ho fatto, ma ho convinto mia moglie a venire al live di Milano il 19. Piccolo particolare, abitiamo a Roma. Stefano, ti prego, quando arrivi palesati, alza un braccio e di sono quello che arriva da Roma. E poi un altro messaggio. Ciao Matteo Caccia, si possono ancora inviare racconti? Nel caso dove si inviano, grazie Vince Spagnoletti. Ciao Vince Spagnoletti, la risposta è sì, si possono ancora inviare, ne sono arrivati due adesso, ho aperto la mail durante la diretta, sempre lì, voi siete qui, @radio24.it, perché con quest'anno probabilmente abbiamo chiuso con i racconti, diciamo, con la preparazione delle puntate, ma per l'anno prossimo, a partire da settembre, siamo di nuovo da capo. Parliamo di nuovo del circo. Perché, e questa è una storia che è la storia al contrario della scimmia, Enrico. Ho portato i miei figli al circo, era un giorno lavorativo quindi non c'era molta gente ed ero seduto in prima fila. Il numero da fare era con dei coccodrilli, ma mai mi sarei immaginato quello che sarebbe successo. Coccodrilli di grandezza media, 3, l'addestratore li ipnotizza, 3 inservienti li prendono in braccio, sembravano addormentati ma con gli occhi aperti, si dirigono verso il pubblico e me ne appoggiano uno sulle gambe, in un attimo attorno a me si crea il vuoto, i miei figli fuggono, io rimango solo paralizzato, non respiro per paura di un piccolo movimento. Lo guardo immobile ma con gli occhi che mi fissano. Sono stati i 5 minuti più lunghi della mia vita. Dovessero mai farmi una roba del genere, io vi giuro che li denuncio. Parliamo di circo, e quando si parla di circo viene sempre in mente l'espressione, o perlomeno a me, non so a quanti, un circo Barnum, no? Che si indica, è un po' lo stesso significato che ha Nani e Ballerine, quando si pensa a un luogo in cui c'è un grande circo, una grande festa, forse un po' eccessiva. Sapete da dove arriva l'espressione circo Barnum? Ecco, arriva da qui. I primi circhi negli Stati Uniti vennero aperti nel 1793 a New York e a Filadelfia ed erano specializzati nelle esibizioni equestri in strutture permanenti. L'idea di rendersi itinerante sorse all'incirca nel 1840. Ma la storia del circo americano non può dissociarsi dalla storia personale di P.T. Barnum. Phineas Taylor Barnum nel 1835 ha l'idea di comprare una vecchia schiava e mostrarla al pubblico, dichiarando che la donna aveva 160 anni ed era stata la balia di George Washington. Il successo lo porta nel 1841 ad acquistare l'American Museum a New York per trasformarlo in un teatro, dove esibisce i suoi fenomeni dei freaks, esseri umani deformi, spesso però costituiti da vere finzioni. Diventa però famoso in tutto il mondo con General Tom Thumb, Charles Tratton, alto solo 25 pollici all'età di 5 anni, che però Barnum presenta come dodicenne. Ma anche con la famosa cantante d'opera europea Jenny Lind, l'elefante gigante Jumbo e i gemelli siamesi Chang e Hank Bunker. Nel 1844-45 fa una tournée in Europa, dove espone i suoi fenomeni davanti alla regina Vittoria. Il talento di Barnum per la pubblicità è tale che ottiene un enorme successo con le sue mistificazioni, che prosegue nel 1871, quando Barnum fonda un circo che chiama The Greatest Show on Earth, dove accanto alle esibizioni tradizionali continua a proporre al pubblico curiosità animali ed umani, reali o finte. Barnum chiama se stesso The Prince of Humbugs ed è noto per la battuta There is a sucker born every minute, c'è un mostro che nasce ogni minuto. Il circo di Barnum, itinerante, apporta un'altra idea geniale: tre piste nel parterre invece di una sola. Nel 1881 si mette in società con James Bailey, fornendo il Barnum & Bailey's Circus. Dopo la sua morte nel 1891, il Barnum & Bailey's Circus viene gestito dal socio Bailey. Alla morte di quest'altro, nel 1907, viene acquistato dal Ringling Brothers Circus e nel 1919 i due circhi si fondono nel Ringling Bros. & Barnum & Bailey's Circus, abbreviato nell'acronimo RBBB, circo tuttora operante. Come follow the band. Circo Barnum, e come scrive Mattia, penso che spesso si identifichi il circo con quelle piccole carovane di bassa lega che si fermano nei paesetti. Il circo invece è magnifico, il circo dei grandi numeri, degli spettacoli curati e costosissimi in denaro e fatica. Come in ogni settore ci deve essere distinzione tra i livelli e non etichettare tutto secondo un'opinione data da quattro zingari che infestano il paesotto a suon di furti durante la permanenza del circo in famiglia. Beh, Mattia, direi che in quanto a etichettature tu però non scherzi proprio per niente. Diciamo, siete rimasti in due, tu e Borghezio, che di solito li liquidate in questo modo. Roberto, mia figlia ha paura dei pagliacci, e vabbè, e la fila è lunga. Laura, penso alla foto di me a 4 anni, seduta sopra l'elefantino con mia mamma che mi teneva. Io mi ricordo solo che avevo una FIFA blu e volevo scendere. Vi prego, non fate salire i vostri figli sugli elefanti e non fateli accucciare scimmie sulle gambe. Grazie a tutti, grazie a Paolino Corleoni, a Tiziano Bonini e a Margherita Ina. Noi ci sentiamo domani e ci vediamo, se avete voglia, al live del 19 alle 21 qui da Radio 24. La storia di oggi era di Fabrizio, parlava di circo, quella di domani è di Isidoro e parla di scelte. È il quarto giorno in Iraq. Mi alzo, mi preparo e guardo il cielo. C'è già un sole come se non tramontasse mai. Mi reco in compagnia, oggi ci danno gli incarichi. Sono destinato alla sala radio. Posto tranquillo, non dovrei uscire molto.